Addirittura. Stavo girando il canale, ti ho sentito. Lo lasciamo andare così. lavorando meglio adesso. Prima non stava lavorando tanto bene, magari non... Adesso sta lavorando meglio e vedo che i picchi di modulazione salgono di più meglio. Se lavora meglio l'amplificatore, lavora meglio tutto. La radio esce molto molto meglio. Ok, allora lasciamo andare così ancora, ti ringrazio. È sempre meglio chiedere informazioni tecniche. Va bene, lasciamo così allora, Antonio. Non ci stanno problemi. Ti chiamo io, abbiamo terminato, ok? Ma ho attenuato Eric Santiago 7, che è tutto aperto, sei quasi a fondo scala, sei. Va bene. Allora già sta andando, Allora già sta andando. Va bene, adesso lasciamolo chiudere, che ne metto a posto qua, uscire lui, vuoi mettere il bidito, ha ragione. E ci sentiamo dopo. Va bene, grazie del controllo. Ma il microfono, cioè un'altra cosa, un microfono normale stai usando, qualche microfono amplificato? No, sto usando la Saverta Plus. Saverta Plus, ho staccato il mic, altrimenti mi fa rientro in cuffia. Il Saverta sto usando tu. Gappa. Si magnificamente bene adesso. Poco fa eri compromesso. Allora è proprio... sta lavorando tutto bene, sicuramente quando si sta lavorando la lavora anche meglio la valvola, le valvole lavorano meglio tutto. Tenere dopo lo fai lavorare troppo, che non va bene, invece con l'ingresso così e coso lui va alla grande. Ok dai, ti lascio fare. Ehi, Anto, è normale se dai più ingresso è chiaro che lavora meglio, anche se è un amplificatore con i grossi, però se dai poco ingresso è meglio. So che questo è adesso per esempio a 4 volte di portante multa, però c'ha dei picchi modulazione a 10-15, quindi è così dai, però già va bene. Ci sentiamo dopo, Anto, ti chiamo io appena terminato, grazie al controllo. Scappa, dai, ok. Davvero sbagliato, sì. Ma siete adesso alla parte stamattina? Sì, Micra, eccomi. Ho detto, siete andati adesso alla parte stamattina? Scappa, da fare un paio di commissioni. E poi sono andato a fare, andare a funzionare al funerale. Ehi, ehi, grosso. Vabbè, pensavo, sei andato tu, no? No, tu. Negativo. No, non potevo assolutamente. Qua sono arrivato troppo male, guarda, mi dispiace un bel, anche perché ho fatto l'infanzia con loro, hai capito? Così che, cioè mi ha fatto un bel male, hai capito? Ehi, proprio per quello sono andato io. Che già passato 3 giorni all'inferno, quindi. Devo anche del dottore. Già ci vado con calma poi a trovarlo, non c'è problema. Scappa. Cioè, sinceramente, guarda, mi scendevano le lacrime. Il contore l'ho visto, ci siamo abbracciati. No, ma soprattutto, cioè, perché io sono stato amico loro, cioè, soprattutto con Luciano, molto, molto, molto amici, molto legati e cosa. Abbiamo fatto le scuole, abbiamo fatto tutto, cioè, è stato anche cliente nostro e cosa. Cazzo, potere una cosa del genere, guarda, non mi piace troppo. Stronger. siamo come cristiani, quel lavoro lì, ci toglie e ci fa come cristiani. Capito? Dunque le sto dando 3 vatte di pilotaggio con la lavora sotto, bicchiere 10 vatte. E sembra che stia andando bene. La modica in assorbimento siamo intorno ai 35 mA, perciò non ci sono problemi. No, già sta andando bene, già oggi già arriva una bomba. Guardateli quei, o uno o l'altro, se vanno bene prendi quello lì, gli altri sono nuovi, quella di quei altri scatturi, capito? Là. Va bene, va bene, va bene. Vai Antonio. Il B300 è bruciato il finale. Ma quello me l'hanno già fatto così, là, con i finali bruciati, Antonio. Ho peccato, anche quello lì era bellino come cosa. L'altro l'avevo bruciato a casa di Claudio, era 5,50. E va bene, là. Fermo la collezione lineare bruciati, andavamo a testa. Però ci sono tanti pezzi che possono servire, capito? Guarda che già si trova nel finale. Io lo so che si trovano, Antonio, ma per il momento già stanno bene dove sono. Il B300 l'avrei aggiustato. Se trovo i finali, Antonio, se trovo i finali lo sistemo, ma per il momento non mi interessa, no. Va bene così. Il B c'è questa radio? No. Vado a vedere adesso. Cappa, c'è adesso. Avanti Claudio. C'è una sveglia, va, è quel pezzino che c'hai sopra in alto, ho capito, già va bene, e andiamo a vedere se sono uguali i piedini, se sono uguali i piedini non c'è problema perché i fili ne ha 3, quindi se c'ha 3 fili in uscita per la commutazione evidentemente c'ha 3 piedini, e viene anche a tornare lì, ce l'avevamo sorprendato, gli ho detto. Però ho detto che la 4 non è facile trovare la 3, ma ci sono problemi, si possono mettere, si può mettere qualsiasi tipo, basta praticamente che abbia la stessa tensione, capito Massimiliano? È positivo, qua, controllateli lì, tanto sono in laboratorio a Gavino, tutte e due, controllali. Aspetta, tu sta piangendo, Guida, aspetta, ripeto. Quel B150 lì si era rovinato, non so se te l'avevo detto, l'ho preso da un altro coso della tecnologia, ma andava bene lo stesso. Guarda quello tuo, quello lì, già va bene adesso lo proviamo perché sono. Questo sicuramente con tutti gli anni che era fermo ha qualche problemino in fondo. Abbiamo già mandato a Cagliari a riparare questi amplificatori, non è che li puoi fare così, però adesso va bene, è a posto, ma bisogna controllare bene questo lì perché c'è qualche problema, capito? Aria caldo, non è fatto, lo sto tenendo funzione per vedere se sgancia, sì, adesso non ha sganciato. E quindi niente, tutto qua, capito? Ripreso, signore. E io vorrei una signora. Quindi segnale c'è da te, la vediamo bene, tutto a posto. Positivo, claro, il segnale c'è, hai la voglia. C'è 9.30 qua, abbondante, quindi ha voglia che c'è. Si volevo dire, c'è in quinta, c'è ancora, come si? No, ma di questo non è a marcia. Questo c'è l'over, ok. Adesso ce l'ho in l'over, perché lo sto tenendo sotto controllo, Massimilia. Quindi siamo entro dentro i 400, dai. E l'ingresso di pilotaggio è 2,5 vatte, però sai che va la c'ha di modulazione, quindi la luna non che sale, perciò diciamo che modulati sono 400, come l'avevi visto tutti i ricordi. Ehi, a positivo, e più vedi, adesso non ti fa saturare né radio né nulla, capito? Prova a fare uno scatto in alta potenza a vedere se cambia qualcosa. No, ma Silvia, lascialo così ancora, lascialo così, sia che si sgancia e poi mi crea problemi. Lo tengo così. Se mai più tardi lo faccio, perché sennò è troppo alta la potenza e rischio di fare danno. Si sente anche un bel rientro della modulazione. La modulazione è buona, Ocla. È perfetta, capito? Non sta né saturando né niente, dai, c'è il segnale, c'è tutto. Vuol dire che quello spray gli ha fatto anche bene, capito? Ocla. E io infatti adesso lo voglio tenere così, ma lo che si asciughi, poi più tardi ne do un'altra spruzzatina dall'altro lato. Lo faccio asciugare bene e così inizio a fare la seconda commutazione, capito? Vediamo se commuta bene, se sale, se mi dà gli altri 450 pieni. Vabbè, non ho notato che con la 48 va molto meglio, capito? Perché c'è la potenza regolabile. E va molto meglio, praticamente non ti satura la modulazione. Con la KB23 che c'ha le watt non regolabili, in controlli anche con la dei baracchini, invece la satura. Evidentemente ci sono troppi watt in ingresso. Questa l'ho regolata e sembra che vada bene così. Potresti provare quello con lui, che c'ha 4 watt, capito? Da. Per vedere se esce bene. E lui se devo cambiare il microfono, lo staccherò da qua, metto lì e vabbè, ma tanto sono a casa, quindi sono prove che posso tranquillamente fare, Massimiliano. Adesso mi interessava a capire se quello che mi ha detto Gabino su ieri al piazzale lì era fattibile. Ho visto che già va bene, perché questo c'è anche lo strumento che misura la tensione delle valvole in milliampere, capito? Già hai visto gli strumenti. E praticamente in scala 10 milliampere siamo intorno ai 35 milliampere, dovrebbe essere a posto. Positivo, dai, positivo, ok. Vai, a tu, riprendi. Gli fa bene comunque quella cosa lì, perché gli elimina alcuni difetti. Fa molto bene, quello secco è vero. È una cosa di genere, semisecola. Non è proprio il polvere, però asciuga subito e lascia una pattina che magari serve per fare l'isolatore. Ecco perché se lo sto facendo andare, sto cercando di capire se quella pattina è necessaria per far sì che lei sia contento o che cosa, capito tu? Capo, no, già adesso ne ficcacci già quei frutti lì. Già vanno bene, le uso pure io. E poi mi ha portato Massimiliano, c'è che l'ha provato nell'uccello e l'efficace. Quello lo fa scivolare bene, capito? Devo che ha tutto la mano per 2 giorni. Ehi, è positivo, tutte le incrostazioni che si formano quando entri nel magazzino della Nutella. Insomma, tutto passato, ci sono 27 gradi di zona carrente, volte purtroppo passare così nella dove soltanto la via accesa è un casino, che ne parla poco dopo un giorno, una massimilia a Marco è arieggiata. Salire da cabino, voglio provare con la, col portatile. Ma per la zona, a casa di cabino, sì. Beh, dopo devo salire, capito? Va bene, va bene. Non proviamo. Non c'è problema, tanto io te l'ho detto, sono qua. Non è che mi sposto. Provo ad andare al mare stamattina, ma invece mi ha fatto il fatto fuori, ho detto no, no. Non ci vengo. È nulla. Mio figlio ci sta lavorando, si è andato male con il ragazzo, noi siamo piccioncini a casa. Ma forse è meglio perché manca Mario, io presento in doccia. C'è un carro che dice mosce anche la cogliuppa. È positivo, no, io stamattina sono uscito verso le 9:20 così. Sono sceso a mettermi il gasolio ottava, c'era Luigi, sono fermato a prendere il caffè, alle 10:15 ero già a casa, mi ero un caso a morire. Qua si sta benissimo, passa un'arietta con la finestra aperta, che non ti dico, guarda. Io mi ho acceso la pompa di calore, l'ho messo a 22 gradi, oggi mai va giù freddo. Caffa. Allora, le condizioni allora ci si è appeso. No, no, qua comunque si sta bene. Sono seduto nella poltroncina, sono seduto, è fatta quella dieta. Proprio che qua sta aperto. È positivo, positivo. Casino, è un casino. Ci facciamo due giorni di ferie adesso. Sono fermi già 2 settimane, noi da lunedì li blocchiamo per un paio di giorni e poi si deciderà cosa fare. Intanto, cioè, i tetudini non sono pagati, devi stare in casa, rompiti le balle, non sono fatte cose. Lo so, però sta succedendo in tutta Italia questa cosa, che non sovvenzionano. Pure gli impresari, non è che faccia molto piacere non lavorare. Certo, di fame non ci moriranno per il momento, però non si sa. Una ditta così grossa, quando non vengono pagate, sono cazzi amari. Sono cose serie, sono. A tu, a tirarla su ci metti una vita, a cadere a testa in giù ci metti un attimo. Lui problemi non ne ha, perché lui male male andando si prende tutto e si validerà. Tu cosa fai invece? Ti vedi a travaglio, vai furta. E il lavoro dopo lo cerchi quando non ce n'è. Ma come ho detto io, lui di fame già non si muore. Sempre l'operaio che ci rimettono tutto. Perché purtroppo quando non pagano è così. Ma noi, questa cosa è roba di questa Italia, amici, ci sono problemi grossi. Quello che avevano detto allora non l'hanno fatto. Dice che dovevano sovvenzionare le ditte, bomba, ma che cazzo sovvenzionare le ditte? Ma vanno a cagare. E vabbè, là. E a tu, due giorni ci facciamo e via, là. Già non ci danno fastidio due giorni. Portate, siamo due, non di più. Due giorni a ci vogliono di riposo. Di riposo, oddio. Mi pare che domani mi abbia chiesto a casa e così me la finisco. Basta, vabbè, adesso che si può, fai bene a farla. E comunque le situazioni sono parecchio brutte. No, se ci sono situazioni poco piacevoli, stiamo venendo a verificare. Avanti qua. Nel senso che se ci sono male saranno in tutto, ti diranno, capirai, e già vivono tranquilli sei. Quando trovi male è il personale, capito? È quello che deve ricevere. E comunque ogni caso fanno un braccio, bloccano, anche per questione di sicurezza, perché se poi non si lavora la sicurezza, io non vedo cosa capita. E siamo passati anche noi, mille problemi, mille cose, alla fine la multinazionale si è girata la palla e ha detto questo, abbiamo una cosa, tu ti tieni questo, io mi tengo questo, non girare la palla, e andiamo a cercare il personale, lo pago io, e grazie a Dio le cose sono messe a posto, ma nei tempi, negli anni passati, era un casino quello che avevamo capito. Lo so che c'era un casino nero, perché è così, giustamente, ma qualsiasi imprenditore, qualsiasi che ci sia, ci dice che se prima andai nella mare non pigiarlo tutto, lo farebbe chiunque, lo farebbe, anche io ci mi troverei con questi mille problemi, dico cazzo e no cazzo, prima andai nella mare io, mando nella mare a tutti quanti gli altri. Perché è così che funziona il sistema. Purtroppo è così. Ma ti ripeto, è un sistema sbagliato. È un sistema sbagliato che rende possibile la vita alla gente. Invece un lavoratore deve andare a lavorare. Ora un cantiere grosso come quello dove Massimiliano. E ci sono questi problemi. Chi ne presente sono non solo gli operai ma anche l'utenza, perché se quella strada è stata progettata per essere finita, tu non vuoi la calamità come ti successo in Hollywood, no? Lì che cosa è successo in Hollywood, lo sai meglio di me, capito? A parte sbagliati, provo le tecniche, io provo, se riesco a terminarla va bene, se no la mollo, e tutte le imprese che sono venute a lavorare in quella strada che hanno preso l'appalto, ci hanno solo rimesso perché è così. Invece lì dove Massimiliano, che le società sono sane e grosse, il discorso è sempre la regione. Se tu hai stanziato all'ANAS 100 milioni di euro per fare quella strada, dico una fesseria, no? Che poi poco ci vuole, 100 milioni di euro per personale. Ci sono mezzi che hanno bisogno di essere tutti i giorni, capito? Quindi non puoi sbatterti una barba, quindi la colpa della regione, non è dell'impresa. Vai Massimiliano. Ehi, è proprio così. In poche parole, il mio principale ha anticipato già un casino di soldi, perché giustamente non stava incassando, da Leandri. Quindi ha provato ad andare avanti per magari sempre coprendo Leandri, proprio Leandri, adesso non ce la fa più giustamente perché i soldi che ha anticipato sono troppi, e allora ha detto blocchiamo un paio di giorni e vediamo un po' se si sblocca qualcosa, incassare qualche soldo anche io, perché lui è 6 mesi che non incassa niente da questa azienda, capito? Quindi in 6 mesi lui ha sempre rimesso la tasca. Cioè non è il problema, a noi lo stipendio ce lo dà tutti i mesi, però anche lui giustamente se non incassa c'ha spese, come dice Claudio, gasolio, gomme, scavatori, materiali che devi pagare da dove li prendi, cioè insomma, è tutto un giro, capito? No, ma è quello che sto dicendo io da mezz'ora, che cazzo Guido sta sempre anticipando, anticipato, però prima, pure quello là dice, cazzo, prima che le cose qua vanno male, cazzo, io ci finisco male, sto blocco il lavoro e via. E che ci piange il lavoratore, purtroppo. Ma la colpa non è sua, la colpa deve dire a questi stronzi, perché sono solamente degli stronzi e farabutti. A quei mangiamerda che ci sono lì. Te l'avevi dato un piccolo affare, qualche la preda, io, bastardi che non sono altri, cazzo, sta rovinando il mondo, questo cazzo di mondo. Allora, sono tutti cazzo pezzi di merda, uno più pezzo di merda dell'altro, cazzo, per carità, ma che gente che ci hanno messo lì. Vedi, te lo dico io la verità che cos'è, risparmiare per farci i viaggi e per farci le cose belle loro. No, non per pensare per il cittadino va sempre più giù là. Tanto, ma cosa cazzo deve risparmiare lui? Io non sa manco cazzo Bussini, cosa risparmia per farsi un viaggio? Cosa va? Bisogno di denaro? Non ha bisogno di denaro per andare a farsi un viaggio. Tu per conservarti 20.000 euro, cazzo, devi lavorare 2 anni. E tu cazzo di guadagno in 2 mesi, o in 1 mese buono, già. Bastardo, va bene, là. Cambiamo discorso, signore, altro casino. Dimmi, Anto, con 4 watt il segnale di questa radio che ha scaldato adesso. Ciao, se 9:10 è radio 5, abbastanza bene, dai. Ciao, è quello che ti sto dicendo io, che chi ti cane maniatore, oltre al stipendio che ci prendono, gli paghiamo anche i viaggi. E viaggetti, gli ripariamo un raio, che fare a sti campi. Vabbè, la lasciamo perdere. Beh, a tutti, dico una cosa, dentro ci rubiamo, mi l'aveva pagato io, a molti non me l'abbia giurato. Stai tranquillo, che c'è poco ma è sicuro. Claudio, vai tu. No, non mi hai fatto ridere. 20.000 euro in 2 mesi. Però 20.000 euro a seduta qui lì o non Massimiliano. Quella gente che prende 60-70.000 euro al mese, capito? Quindi no, non ha problemi di fare viaggi in cavatoio. Tu considera che un consigliere regionale nostro qui in Sardegna arriva a 16.000-17.000 euro al mese, un consigliere. Capito? Presidente della regione forse arriva a 30. Quindi lasciamo perdere che è veramente una speculazione di denaro pubblico. È una vera speculazione di denaro pubblico e comunque stiamo perdendo, Massimiliano, i fondi europei per proprio stanziati dalla comunità europea per strade, per stabilimenti balneari, per tutto, proprio per colpa di questo testo di cazzo, lo sai. Sto troppo dicendo, Cla, io penso se questo qua continua a fare tutte le cose che sta facendo, succederà la guerra civile, vedrai cosa succede in Italia per questo coglione. E ma la colpa di chi è, Massimiliano? La amici che vedo, in linea di massima stanno funzionando. Capito? Berlusconi, io non sono berlusconiano, attenzione. Io mi andavo bene così, perché avevo tolto la tassa sulla casa, perché c'erano delle risorse economiche un po' più alte rispetto a quello che è oggi. E quindi qualcosa si era un po' mossa, non dico molto, ma un po' si era mossa. E non eravamo così, non eravamo proprio così a questo livello. Cioè i giudini in pochi mesi, questa testa di minchia, ha fatto due riforme che è solo un pericolo per il lavoratore, è solo un pericolo per il lavoratore. Io spero che rimanga così tutto com'è, perché altrimenti veramente per andare a lavorare dobbiamo andare col bambino in bocca, perché come apri, come dici, parti da un calcio in culo e ti mandano a casa, hai capito dove sta messo il discorso, Massimiliano? Ehi, cazzo, te lo sto dicendo proprio così, guarda. Ma io avrei voluto, lo sai che cosa? Guarda, una cosa, che tutti gli italiani, tutti per nome, tutta l'Italia, tutti quanti non avrebbero più pagato un euro da nessuna parte. Tutti lì, tutti grandi, vanno a vedere il passo appena di macchina. Perché se tu consideri che il recupero delle tasse al suo tempo erano a carico dei comuni, quindi tu non hai pagato la tassa per, ok, ti mandava il comune la lettera dove ti diceva che tu eri moroso di questo, andavi lì, guardi, io non ci manco una sisina, cosa facciamo? Va bene, non c'è problema, quanto vuole pagare al mese? 20 euro, 10 euro, l'importante è che lo paghi nell'arco del tempo se lo senti. Dando in mano tutto a questo cazzo di Equitalia, sei convinto che l'abbiamo deciso noi, l'ha deciso lui, l'ha deciso lo Stato, l'ha deciso il governo, capito? Che tutte le cose passino per l'Italia, perché l'Italia non solo una percentuale, ma è un ente dello Stato, capito? Dove secondo loro fanno prima a recuperare i denari nostri con interessi del 100%, costringendo la gente a buttarsi al ponte, come ci è successo, tutto qua. Quindi più mi sembra benedizione di voi, tanto è vero che molti comuni in Sardegna, molti comuni piccoli, non hanno aderito, nel modo più assoluto, come Belfo, Assemati, Sarajevo, tutti i comuni piccoli della Bassa Angola, le tasse se le esistono loro, i recuperi crediti delle utenze se le recuperano loro con molta cautela e con molta attenzione. Capito, senza far passare i canti del paese tramite Equitalia. E ne fatto troppo bene, hanno fatto, tutti così dovevano fare. Lì lo dico, cazzo di cane, in maniera lo vedi nel sindaco di Sassari, va bene, sì, è d'accordo. E sicuramente vedono la percentuale in tutte le cartelle esattoriali, riprendi a tu. Ho sbagliato un sacco di finanziamenti, ma un bel però, tutto in un casino. Ora aspetta che mi sto mangiando questa, come si dice, il suo pesce, riprendi, Massimiliano. Fate vedere, avete le mani, le faccio giù, prego. Bisogna dirlo, si poteva fare molto, molto meglio qualcosa. tiri 1500 euro, vai, ti fai una spesa, ci togli già. Ti togli le spese di casa, ti fai. Io cazzo non riesco più a capire. Cioè entri in un bar, due birre, cazzo, pacchetto di sigarette, 20 euro, cazzo, cioè siamo andati proprio allo sfascio, cazzo. Bro. Vabbè, tornando al discorso, quindi tu domani mattina devi andare da Gavino, così è. Ecco, presento, e ne senti sì, te lo dico per esperienza, non forzare. sento bene anche, così che pensa che si può muovere a 62, ma ne manni, non so cosa sarà mai visto. Pesano intorno ai 140 kg. E poi io voglio mettere la carichetta d'azzurro per andare alla macchina. Non lo so se già diluito il turno, è che grazie a Dio già ci hai spalle le braccia. Ma così sì, eravamo un po' tutti. Poi però ti ripeto, al cambio di età, te lo rifaccio al fisico stesso, ti dici dove fa un po' meno, te lo metti a lui di cinetto. Adesso te la prendi come lo sa, e io faccio di tua mascia, e quindi non ti dà più quella soddisfazione di prima, perché guarda un minimo, io guarda sinceramente, sollevavo di tutto e di più, facevo qualsiasi cosa. E a 40 anni ho iniziato ad avere i primi dolori alla schiena, i primi dolori alle braccia, ai muscoli qui e là. E da 50 anni poi, 47, 48 anni, ho messo così i miei dubbi. Capito? Per artrite, lombosciatalgia, qualsiasi sforzo mi fa male qui, mi fa male là, ma quando voglio l'unica ciambata, e questo non si mette più a posto perché sto a ritrovi di notte, che eravamo lì in piazza alle 6, sembrava che si stava bene, alle 5 di età, tutta la notte senza dormire, tutta la notte proprio a colpi, sembra che altro che mi stavano prendendo a colpi di martello, e quelle sono le ossa che oramai sono talmente deboli che qualsiasi, anche un cambio di temperatura ti dice, beh, prendi tra me queste o Claudio Spaghetti, capito? Ma pure babbo era così, tutta la notte senza dormire, a dolore alle ossa. Io già ci ho dormito, vabbè, ci metto un poco. Ma non mi c'era dentro? No, quello l'ho lasciato fuori. Tutta la notte, tutta la notte arresto io. Capito? Lo porto io che se mi riporto giù subito. qua sono seduto, che uso il braccio, quella lì è una manina, quindi se ti devo grattare il QSO te lo gratto. E cosa fai? Una mano rimane e c'è l'altra e lo QSO. Ma non è lo mio, no, è lo vostro. Non ti immagini, se ci vuole grattare lo gratto, ma ci vediamo. Non mi ricordo dove cavolo l'ho visto. che cerco qua, la roba che c'ho a vedere. Vediamo un po' se sta a trovarlo questo. C'è un bello di quelli russi, a te. Adesso vediamo un pochettino se sta a trovarlo, se non ve lo dico non li mettiamo, e vogliamo bene lo stesso. Dico di quello vecchio che sarà BFT. Aspetta che ho sganciato. Ok. Ho sganciato, eh. Ecco qua. Così non abbiamo problemi, Antonio, siamo troppo vicini. Ma infatti è così, è così. È proprio così. Esattamente come stai dicendo tu. Antonio, io ho un B300 e un 550. Vanno bene quei vedi? No, non va bene, no. Troppo potenziale là fuori. Capito? Quella fare che c'ha Claudio. Non va bene, non va bene quello. Insieme che non c'è spazio e tutto e vediamo un po' come la situazione. Dopodiché già lo troviamo. Per il momento sembra che stia andando, non c'è problema. Sganciato Massimiliano, quanto ho perso? 20. Più o meno sì, sei sceso a 9.15. Faccio con la spada così. cambiato la virgola. Non so se vogliamo provare in FM, se riesce a tirarlo meglio fuori, già. Io sto usando 4 watt di baracchino suo con l'MB più 5, capito? Liscio come l'aria. Cioè, a me mi ascolti solo di radio, tante volte ci rubi le ore. Sto usando la stessa radio, Gianni, sempre la stessa radio sto usando. Tanto che non ci abbia attenuato il cilindro. Ma non sto usando io la stessa radio di poco fa, adesso sto usando il Kenwood. Poco fa c'avevo 400 watt sotto. Oh Gianni, cosa pretendi che ti arrivi 9,5 come poco fa? Adesso sto usando 30 watt io, quindi il segnale è quello, sai, e per Sassari non è che ci sono molti discorsi. Se aumento mi senti bene, se tengo basso sono più basso, è normale. Ma io qua non ho nessun problema. Giuseppe, riprenditela. Scappa, eia. Ma dire una cosa, ma sempre a casa è Gianni Chiaramonti? Sarà sempre a casa, ma poco fa mai con il baracchino mi arrivava 9, 9, 5 e anche di più. Adesso qua è 7, capito? Sentivo 7, però io qua sempre così lo dicevo con questa radio lui. Mi si è controllato l'antenna. Io ho comunicato quella giusta, ma è a posto, non so problemi. Bombalo bene, mi ascolti tu. Una bomba ti ascolto. Ti ascolto forte e chiaro proprio qua, eh. E allora io problemi non ne ho. Qua è tutto a posto. Avanti, Antonè. Che è preso di salvando per te, ti ha ritorno tra poco. A proprio di segnale di Pomponio più o meno, questo. Tu c'è 9,20, lui è un pochettino meno di 9,20. E tanto va che tu usando io 4,40, ce l'ho sempre così, dai. No, in città va bene così. Stavo provando l'amplificatore, quindi chiaramente c'era più potenza. Ma si butta sempre l'amplificatore attaccato. Va bene, Massimiliano, riprendi. Positivo, là. Gianni di Chiaramonti, vedi un po' se mi ascolti meglio adesso. Hai visto che hai già mezzo la radio? Ah, ok. E oggi meglio mi ascolti così di radio? Sì, adesso sì, Massimiliano, adesso sì. Adesso mi arrivano 9,10 abiti positivi. Cioè azzurra 9,30 con 4 watt, va con 2 dentro sono con 9,20, 9,15, va bene, no? Oh, è un po' ti dica, il segnale qua è così, Massimiliano, non lo so colorare perché è molto più forte. Ma io al contrario mi lo smetto di leoncino con Massimiliano. Cosa è? Al contrario lo smetto di leoncino. Carta contrario, ma è una carta contrario, Ocra. È nuovo questo Smith, è nuovo, capito? Segnava così. Aspetta, Leonci, guardalo bene, quanto ti sto arrivando questo passaggio? Aspetta che ero coricato, ero. Prova, Massimiliano. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dimmelo giusto. No. 9,30, adesso avevo visto male, dai. 9,30 picchi positivi. Ascolta, guarda adesso questo passaggio com'è, 1, 2, 3, 4, guardalo bene. Aspetta un attimo, 5 minuti. Tutto si è bruciato. Ciro. Giuse, ti ho chiesto un controllo con quattro parti, mi ha detto, tieni con il cazzo, ti dice bisogno, mi ha detto, guarda adesso, aspetta 5 minuti. Ma lontano ce l'hai questo baracchino allora? No, non ce l'ho lontano, Maximiliano, non ce l'ho lontano, ce l'ho vicino nel mobile, però ero sdraiato, non l'ho visto bene, capito, perché lo sento chiari. Ah, e comunque adesso come il segnale? Ma arrivi 9.30, capito, Maximiliano, 9.30. No, non lo so, va bene, va, 9.30 con 4 watt e 9.30 con 200, va bene, va. Massimiliano, prendi tu Gianni Dinamite. Ciao, è Cubbia, ciao. Ogni tanto adesso io li ho pulito praticamente. questo progetto sta andando benissimo. Io qua ti sento a meraviglia, non riscontro nessun problema, dunque non lo so. Boh. Ho capito, no, io dovrei avere un X lunare BV130 in bottega e ci manca l'auto, cioè il trasformatore, non l'auto trasformatore, il trasformatore ci manca. E dopo deve essere una parte, non so, se il BV130 ha lo stesso numero potrei, si potrebbe togliere lì e salvarlo, però bisogna essere caratteristiche, sono sempre quelle, no, non sapevo dirti, non ho capito qua. Non so neanche le caratteristiche perché non si vede, e quindi non so esattamente le caratteristiche, però intanto lo smonto perché quello l'hanno già mandato a Cagliari a riparare, e siccome Cagliari non l'ha provato Roberto, me l'ha ricordato così, però l'ho riparato ugualmente come l'ho riparato io adesso, insomma, a fortuna, e mi ha detto non ti assicuro niente, però sappi che quello che vedremo di nuovo perché non è messo bene, l'applicatore è nuovissimo, solo che la fermo un sacco di anni, capito? E allora pian pianino lo stiamo rimettendo in sesto tutto qua. Bisogna trovare adesso l'AutoR1 24 volte 220, quindi dovrebbe essere all'incirca come questo. E lo presentiamo, lo vediamo, e altri bobinetti, altri fili, e quindi dovrebbe essere uguale. Va bene. E anche io ho un BRL 200 in riparazione a Cagliari. Lo dovranno mandare, non so, appena pronto lo manderanno. Ok, Antonio Bongo, a te il microfono, cambio. Scappa. Ho provato a metterti quello, ben simile. Magari va bene. Allora se te l'ha detto vuol dire che lo sapeva il fatto suo, vuol dire che quel coso non è tanto sicuro, quello lì. Sì, ando già diagnosticato che quello, tutto il resto è a posto, che ho praticato in omissio. C'era un condensatore elettrolitico da cambiare che era scoppiato, ma perché gli hanno dato troppa pressione a suo tempo. Quindi ha cambiato quello, ma non ha nessun altro difetto, nuovissimo di panca. L'unico difetto che ha è che il René è da sostituire, capito? Tutto lì. E quello non c'è problema. Avanti, Gianni di Chiaramonti, vieni avanti se mi ascolti, cambio. Se stai facendo portante, avanti ancora. sento la bocca qua, evidentemente ha problemi di radio, vabbè, è così. Non so qua, se sei ancora all'ascolto, non so, se hai il tuo schema elettrico di quel lineare, se mi posso ricordare le caratteristiche, ad esempio la tensione, come funziona, se ha 12 o 24, come diceva un po', insomma tante cose. Tu non lo conosci bene quella diventata ordinaria, Antonè, per vedere se effettivamente è a 12 o a 24 quel relay. Guarda, non c'è sigla, Giulio. Sigla non è vero, sto guardando, veramente non è vero, ma penso che sia a 24 volts, 200, cioè 20, sì, 24 volts. Ho capito. Sì, no, lo so, boh, bisogna vedere. Domani do un'occhiata, vediamo un po' con quello che c'era io appunto in bottega, perché non lineare con bottega da qualche tempo, ci manca il trasformatore, vediamo un po' questo giovedì, come se può andare o meno. Se va bene, trovo e basta, non se ne parla più. Così tenti di mettere a posto quello, effettivamente. E beh, disossidando con uno spray, una cosa, non è possibile quello, perché magari sarà ossidato, e chi lo sa, se da tanto tempo fermo, probabilmente è ossidato. Sì, ma ti dirò, sta funzionando, non è che non sta funzionando, sta funzionando, ce l'ho già un paio d'ore in tensione, non l'ho mai scattato. Infatti io l'ho leggermente sollevato, purtroppo sono un braccio che ho dito di non so fare molto, ho molti sforzi perché è grandissimo, un lineare molto grande, pesa un 30-35 kg, quindi sono riuscito un po' a metterlo in posizione per vederlo bene, vedi, ho leggermente pulito i carboncini, li ho soffiati, poi gli ho dato una passata di spray e li ho regolato per la pena. E basta, e sta lavorando. Però siccome già Roberto Cagliari mi aveva detto il tecnico che voleva sostituito, glielo sostituisco e basta, così non sto sempre a rompere le mie scatole, Giulio, ho capito. Ah beh, certo, ma suppongo anche che al limite in commesso si trova di sicuro, non credo che ci siano problemi. Se no addirittura tramite internet si può fare le valide in quei numeri contenti. Se non si trova qua già è possibile, un componente del genere è abbastanza trovabile, non credo che sia così difficile assolutamente. Vabbè, dai, sai una cosa, domani controllo se effettivamente quello può andare bene, te lo passo e via. E così se si trova pazienza, stiamo ciccia, non so cosa dirti. Va bene. Antonio Pompolo, sei rientrato? È positivo, mi sono attaccato sull'altra parecchio nelle nuove ricezioni. Meglio si trova qua dove si trova, però non riesco a fare, non faccio fare bene questo che sta facendo lì adesso, c'è la mente molto larga e quindi tiene un 16 ampere addirittura, capito, in due di tensione 220, quindi però l'alimentazione è a 24 volts ed è un 16 ampere 250 volts, già va bene. Una voglia creerà di cosa fu. C'è quello di capoci nuovi, quindi non è mai stato usato. Speriamo che va, è un doppio scambio, qui dovrebbe essere giusto. Ma in questo praticamente fa lo scambio. Stand by e operate. E dici dall'unica della pilota. Sì, dovrebbe essere uguale, sia tra chi è uguale. Solo così. C'è uno scambio e poi l'alimentazione. L'impulso per la modica della valvola. E ci sta praticamente la modica della valvola. Va bene, dai. Lo proviamo ancora. Non ci stanno problemi. Avanti, Leoncino, sei rientrato, grazie sempre magnetici. Sto mangiando, ero un attimo in bagno, hai capito? Non dirà a tutti che ero in bagno, tu stai mangiando un bagno con la salsiccia. Sì, No, tu te lo devi mangiare come il giusto, Antonè. Però così carne. Ho fatto la cucina per 8 giorni di giusto nella piazza a gas o cazzo. Ma con carne ha mangiato di quel giusto di USB? No, sai che non sono buone. Cucinati così nella piazza non vanno bene, no, a fare addosso quei cazzo di giusto, non servono a niente. Non c'hanno nessun sapore, tutte le cose ce le buttate. Neanche Scooby li ha mangiati, perché di solito Scooby se li mangia così, perché gli piacciono parecchio. Quando voi cucinate così appena appena arrosto, non servono a niente. Cosa cucinate arrosto? È una piazza calda, ci ho capito che sono fatta cosa del gas, quindi quando scalda la piazza lì, come se si facesse arrosto più o meno, quindi si bruciano appena. Ma. No, ma con caldo per tutti, no? Non servono a niente quei distri di Edo Spicca, io vendo a 50 centesimi l'uno, cosa? Distri di tacchino, sarà? Se non ti piace il tacchino. No, non mi sono mai piaciuti i distri, non mi mangiato. Cioè, qualcuno sì, ma non mi sono mai... Perché ti rimane quel sapore schifoso in bocca, no? Capito? Meglio salsiccione a mangiare che c'è tutto piccante. Ci sono varie cose, capito? Quando in carne è buono, che non devi fare? Che è da piccante, mamma mia. Normale, non piccante. Sì, adesso che poi ti frigge un bella canna. Quindi, se pigliarlo per bocca e casiccione, cioè se pigliarlo per bocca è buono, ma se lo pigli per culo, allora sì che deve fare la faccia. Perché con friggitore che c'hai, o ghiaia o piccante. Ma tu hai sapere queste cose vuol dire che l'hai fatto o altro che? No, non l'ho fatto, meno male, cazzo è andata, non mangio un po' piccante che se vedi molto, non mangi per 2 o 3 giorni comincia già a fare, a venirti problemi alla canna, capito? Quando vai in bagno è come se fosse già da 2 giorni e cominci a sentire il bruciore di canna. Tu devi mettere il cubetto di ghiaccio, ti metto per rinfrescarti. Luca, sempre su, tanto a noi. Sto guardando un po' di sport, la radio accesa, tutto acceso. schiaccio, no, non riesco a darci, capito? E K, sì, vabbè, il mio non è che ce l'ha, ecco, un mio ce l'ha questa volta. La mangiamo io, sa me, figurati. Infatti te l'ho anche detto, però. Ma qua, quando siamo arrivati qua, stava bene, c'era caldo, c'era qua, qua sotto, era solo un video militare, una cosa impressionante, sembrava come essere in mezzo alla campagna, quando vai in moto, per dire, se ne è notato, ma se in città c'è caldo, prendi un pezzo che c'è una campagna vicino, c'è quello militare, ti entra dentro le ossa, te detto, questa cosa li ha quadrato ieri. Allora, Gesù. Ma io te l'ho detto, cazzo, non sono venuto a prenderti, e ti ho detto mangi un botto, non te le prendi, cazzo non è puoi, io te l'ho avvertito, prendi un giubbottino leggero, però ci vuole sempre, perché ne c'è molto, cazzo, che la notte scende quell'umidità che ti entra nelle ossa e stai male. Stavo bene, la verità, perché mi sono cominciato tranquillo. Il problema è che dopo che mi sono cominciato, ho cominciato il muscolo, sono in plastica, però non voluto scendere per niente. Grazie che il dubbio non ha dato, stavo facendo la percorda, non lo so. Vabbè, comunque io ne avevo tre giubbottini, te li potevi anche mettere uno, non c'erano problemi. C'avevo il jeans, c'avevo l'altro, c'avevo quel colore della felpa, dunque problemi non ce n'erano. Già lo so, già non preoccuparti, siamo divertiti almeno quello che conta, più che altro. Giulio, lo vedi? Ok, dottore, grazie perché mi ha chiamato mia moglie da sotto piano, vai. E probabilmente mi ha preparato qualche panino per fare la merenda o qualche gelato, non lo so, vabbè, se ci siete ancora, se ci sentiamo dopo, dai. Vi saluto nel frattempo, c'è Antonello, Claudio, Antonio Bombo, Giuseppe e poi chi c'era, all'ascolto Gianni forse, ci sentiamo eventualmente più tardi o perlomeno dopo, non lo so. Dottore, pure qua, dai, per me il cuore ti ascolto il vostro piranino, vado a fare merenda. Giulio, prima di andare, quante centare vanno a casa tua? 9 più 5. 9 più 5, va bene. Va benissimo, non è un problema. Più che bene, va. Guarda, attacchi coraggio, Giulio. Altro che 9 e 15 arrivi. Sono 10, 20 e 15, 9 e 25. Appunto faccio, te l'ho detto. Una volta che facciamo quel lavoro là, vedi come c'è l'insegnare, il gusto ci guadagna. Capo, ma guarda che sei più forte pure qua, sei pure tu, pure tu, perché quasi in fondo scala, ci manca poco, ci manca... Giulio è più forte di te perché proprio la lancetta fa quasi tutta a fondo. Però tu sei bello forte qua, Capa, va bene Giulio, va bene a tu. Però devi contare che Giulio è l'altra parte della strada, alle punti. Tu sei in linea d'aria, siamo vicini, capito? Ti spiego, Giulio è di fronte a me proprio. Cioè, in linea d'aria siamo vicini, sì, ma lui è proprio di fronte, proprio... Io li punti sono proprio di fronte, cioè come che sia attaccato a me, capito? Tu sei dall'altra parte, se io vado nell'altra stazione arrivi a fondo scala, hai capito? Se vado nella stazione di Babbo, qua un pochettino prendi perché c'è il palazzo che ti fide. È così che ho quel palazzo, però c'è fortissimo qua, Hai capito? Rispetto a te lui ce l'ho proprio di fronte, non ho niente da farti a lui. Hai capito? Capa. Vabbè. Comunque. La posizione che sono io qua è come messa l'antenna, io arrivo dappertutto abbastanza bene, hai capito? Arrivo benissimo. Fortissimo, forte da tutte le parti, arrivi anche all'Alghero, io non ci arrivo, cioè, sono limitato, magari ce la faccio io. sentono, ogni posto che vai si sentono, a me io sono limitato a confrontare. Allora già ce l'ho. Sento lì perché non la posso mandare. Siamo un po' con il cazzo, ma se andiamo a parlare, ma perché non state fermi con la portante, scusate. Ma io non riesco a capire, cioè se uno può entrare tranquillamente, se ha un problema per un controllo, ma c'è bisogno di stare con la portante e pigere, pigere. Io non riesco a capire, madonna santa. Gli ho visto anche il segnale. Oh, Claudio. Sicuramente ha detto qualcuno che ha necessità di un controllo, qualcuno che sta provando, ma non va bene così. Se ci offessero un attimino, vediamo chi è. Vuoi entrare, hai bisogno di un controllo, non stai uscendo di radio avanti. Non stai uscendo di radio, dai due colpi di forza. No, non lo sento. lì o sente, io no. Non so se lui sente a me. Attenzione, Roberto, ma ascolti qua, io non ci non sono. Allora, buonasera. Ascolti in basso. Hai sentito Giuseppe, quasi 9 ti arrivano. Antonio Romolo, guarda che ti ascolta, Roberto, guardato, Ti ascolta Santiago 3, Radio 5, e stai parlando di Stindino, quindi non ti vuole lamentare. Ma io lui non lo sento, il problema è quello. Io lui non lo sento, sicuramente non ero abbastanza forte per arrivare a me. E via, dimmi Robe. Assolutamente negativo. La radio è perfetta, fenomenale, 5. Ma non avevo dubbi che Robe quando mi hai fatto vedere con l'antenna, mentre io invece con l'altra, con la pace magnifica che mi hai dato tu, un pochino di stazionale, ma la vero con calma, piano piano, già malattaro. Però quella è perfetta, sì, oltre 9, la radio 5 è perfetta, bella, pulita, senza nessun problema, va veramente bene, avanti molto pompa. Si va bene, auguria. Non sono stato vicino allo stato, risulta che lo stato a lui, ha sentito proprio chiaro, chiaro, chiaro, ma non che non sia la parecchia, io vedo che è numerico. Leggermente sforzato, non di molto, ma leggermente. Lo sento benissimo. Ciao, ciao, ci sentiamo, vabbè, alle prossime. Ciao, vabbè. Ci sentiamo alle prossime, fammi bene, grazie per essere intervenuto, vai Giuseppe. Ciao Robè, ci sentiamo tutta la notte alle prossimine, quando riprendi la tua cucchiacca, avanti, avanti. No, signore, è buono, ma la radio non c'è. Controlla il microfono, se no dai manchi che... Niente, radio niente. Qualcuno che arriva no, dai, comportante Pisa, guarda le chieghe se ci riesci. Scusa, siete solo le tecniche da portante e basta. No, anche io qua vedo la portante, ma radio no, non è vero. Segnale è buono, è un 9-10, un 9-15, una cosa del genere, però no, non vedo, non sento la radio. Ma il segnale di una persona mi sembra, che ha difficoltà, che non esca proprio. Io non lo so, io sono un ragazzino, quindi non distingo bene i segnali. Se conto magari mi accorgo se è un segnale che ho già registrato o meno, ma però baracchino non mi accorgo di questi, chi è la persona, io ho capito. Io acchiappa, ma si vede che è in difficoltà, che vuole cercare di parlarci ma non esce. Non so che dirti, Giuseppe. Dimmi Claudio. E allora? Tutto qui, ti hai già fatto merenda, tutto a posto così. Io poc'anzi alle 5 o 4 mi sono mangiato una bella fetta di anguria e sono tranquillo. Anzi, invece mi hai mangiato un pugno di ciliegie, per poco mi cago sotto. Abita e pare sia la traversa via Gabriele D'Annunzio, lì, dove voce forte da carico. E la campagna ce l'ha? Allora non metto di scendere la Sant'Orsola. Forse Sant'Orsola. O nella CTV, è vicino comunque. È vicino. E quindi te la do una cattedrale di ciliegie di Zingangato. Non è che ti compri gli anguri, quello che fa. Ah, che amici di Rada, ragazzi. Stavo parlando e se non mi ha dato la sedia faccio buco, che non darmi mai anche via a Claudio, mi manco al circolo, perché se no se ce la fila lì se ce la fa addosso, oppure se c'è qualche maniglia che ho bisogno di andare a pisciare devo aspettare 2 o 3 o 4 ore lì. Claudio, già te resta qualcosa a casa. Quello che è... Sì, allora, io parlo allora, quando Claudio era bello pimpante, ragazzino, ragazzo, che proprio della colonna non era putia nuda, manco ce la perdeva quello che ci perde oggi, sa, è ragioniere. Mamma mia, fa schifo quell'uomo, che cazzo, io tutte le volte che lo guardo mi vergogno, perché forse perché non sono un bevitore così vedi, ma che non si può con 40 gradi attaccarci la bottiglia alle cecchinine, ma come cazzo si fa? C'è chi ci va a dire che è un piccato cazzo, mamma mia che schifo che... Ma il fatto è quello, che la colazione, dopo la colazione ci mangia un appasto, un cornetto alla marmellata o alla crema, e poi si beve tanto, si beve il gentilegna, cioè capito, invece prende il caffè, un caffè, che giustamente la colazione ci fa un caffè e un appasto, no, lui ci prende un cornetto, è un Jackie Reynolds, e da lì inizia, poi si mette il Jackie Reynolds, inizia a vino, finito il vino, e a volte quando ci sono, inizia con la birra, e poi nuovamente a Jackie Reynolds, hai capito, Cla? Fa mettermente schifo, oh Giuseppe, davvero, credimi, non so, comunque, contento lui, ma... Non credo che abbia vita lunga quell'uomo, sinceramente parlando, perché è impossibile buttare giù quella roba in d'estate così con 40 gradi, cazzo, è allucinante. È allucinante. C'è una bella bevetta fresca, ci sta bene, un bel vinello fresco di proprietà che non fa male, ma cazzo fare quella porcheria è allucinante. Non ti va. Io la mattina, 2 pasta e un cappuccino. Vabbè, io la mattina prendo una parte del caffè macchiato, cappuccino non mi piace, c'è troppo latte, c'è una colite, non le posso bere, un caffè macchiato, basta, e vai avanti così mattina, faccio poi l'ora dell'aperitivo, e io non bevo Campari quella roba lì perché non mi piace, mi bevo un vinilino, un frittatino, una cosa così, è una cosa normale, ma quello quanto... E da noi dove siamo stati noi, siamo stati un paio d'ore lì, cazzo si è bevuto una dietro l'altra, 5-6 cecchinegna, poi è passato alla birra, poi di nuovo a cecchinegna, cazzo noi ce ne siamo andati, ma comunque io penso che non abbia vita lunga quell'uomo, minchia che si deve avere il fegato a pezzi. Chi può? Io sono abituato così la mattina, un bel cappuccino, io lo posso bere, e 2 pasta. A volte quando ho fame anche 3 me ne mangio. Sono tu per compagnia Benito, eh? Oh Giuseppe, andami con il Benito Antonio. Vai al negozio, ti fai un panino, un panino con salame, un panino con la mortadella, o quello che vuoi, eh? E ti bevi un bicchiere di vino, però sei a posto, capito? 9:30, 10, sei a posto. Ma calma, questo cazzo, guarda, appena apre il circolo alle 10:30, si piglia la pasta e si beve, cazzo, invece beve il caffè, si beve il bicchiere. Ma ti rendi conto, tu? Ma non rendo conto, guarda, solamente che tipo fate. No. Prima di tutto io non sono neanche abituato a bere, cioè quando bevo una volta all'anno e se salvi chi può, Esce di gamba, no, vero. Però se io dovessi bere quella cosa tutti i giorni mi distruggerei, guarda, lo so già. Perché a me basta bere un bicchiere di vinello quando c'è caldo, mi fa già male. Perché sono abituato tutte altre maniere, per esempio il panino non lo mangio tutti i giorni, lo mangio una volta alla settimana. Sono abitudini tutte diverse. Vabbè, ma il discorso è questo, Otto. Allora, lui, prima che apra mio fratello alle 10:30, va da circolo che c'è lì di fronte a Oggiano, da Rozzo, se ne fa altre tre lì, poi va quell'altro circolo che c'è lì di fronte, più giù di Fusaro, hai capito, Otto? E se ne fa altri tre, quattro lì. Tanto alla fine di mattina, tanto esce il giammello, non lo vedi barcollando tutto quanto, pare che tanto non abbia niente, capito? Il discorso è quello. E vuol dire che questa persona, l'alcol lo tiene abbastanza duro, capito? Da fare tutto nulla, lo fumo, non ti preoccupare. Vabbè, comunque, vabbè, dai. Riprendi Claudio. Ma infatti, come dice Antonio, ti ha fatto tutto nulla perché non è un ragazzino, Giuseppe, non è un ragazzino. Non è un ragazzino. E più fatti vedere quello che fa Benito, con Giuseppe. Non Benito fuori dal baracchino, la signora si chiama Benito, fai chiarire che si mangia due patte, mangia 76-77 anni, si mangia due patte e si beve un bicchiere di vino, capito? Ma non a parte di questa cosa, non ci chiede, barba via, non ne ho mai bevuto io. Mi fa completamente schifo proprio. Avanti, Antonio, riprendi. Voglio che fa la cura delle uova la mattina presto, uova sole, capito? Ecco perché tiene parecchio l'alcol. Vuol dire che mangia un bel uova sole. Capito? È tranquillo, può bere quello che vuole. Però una volta arrivato all'ora di pranzo, è morto. Se va bene, dopo può pranzo, quello si sveglia alle 5. Lo assorbe perché assorbe, cosa fa? No, come fa salire l'alcol? No, non ho fatto io l'alcol, non lo assorbe, è proprio quello che... Lo magari 5-6 poi può bere quello che vuoi, non c'è problema. Non è mangiato le uova presto, a me mi fa schifo la vita. Capito? E invece i pappolesi, a chi la presto mangiano salare, salsiccia, formaggio, e poi una volta fatto quello si fanno il giro dei circoli e bevono tutta la sera quanto vogliono. Però mangiano sempre, se non fatto, se sono uova, mangiano uova sole, se non fatto attività fritte, sono sempre mangiando qualcosa, capito? Non è che stanno sempre bevendo così, e se no vogliono tanti morti a quest'ora. Minchia, signor tenente. Vabbè, però dai, io capisco d'inverno. Vuoi bere anche una cosa così perché ti riscalda, perché vabbè, ma cazzo, a 40 gradi, la maniera mia 30 gradi, e tu sei tacuto in colpo 4, 5, 6, magari sono toccato e ne ho bevuto fuori, di cerchi di mia, cerchiamo parlando di alcol puro, capito? Non va mica bene così, non so, vabbè, ognuno fa quello che piace. Cosa vuoi dirti? Avanti, ho morito. Scappa, avrai a vedere chi cazzo è lì. Farà tutta un'ora, insomma. Poi così no, lo conto. Allora, quando vieni così assai, si sa che il fegato mi risente di quell'anno fa. No. Non sono cose che piacciono a me, mica io devo bere, o bevo la birra, o bevo il vino. Però a me piace il limoncino, mi piace, qualche volta il limoncino, ma qualche volta, ma se devo proprio bere, proprio fa farmi feo, c'è roba di vinello, roba così, ma niente di particolare. Però quando gioco muro tranquillo, quando non è, quando non sto lavorando, quando sono tranquillo, altri sottini niente. Altrimenti io non tocco niente, acqua bevo. È semplice pure, neanche gasata. Acqua c'è buona, c'è buona, c'è una gasata quella vera di come è fatta. Quella al mattino, acqua leggera, leggera che la gasata si fa anche bene. Si vede la passa al mattino, ti gonfia lo stomaco, si fa mangiare. E tutto il giorno bruttando, sta come un porco. Ho fatto sempre cala al culo la tua gazzata. Vabbè, voglio morto ogni tappa proprio perché c'è sali minerali, ma se no a me non è che mi fa la tua gazzata. Acqua semplice e basta. L'unica cosa che mi piace è mettermi, quello che mi piace. Per lui non bevo altro io. Mi piace sempre un cino in vita mi piace. Ho preso, no, poi stavo parlando di papo. Allora, ho detto va. Allora adesso mi sono un pochettino distratto. Cazzarò, l'altro giorno, girando, canale 828, ho trovato, come dice Antonetto, un canale di più su. 828, che camera? Su, satellitare. E su, unia su e giù. Oh, oh. Questa matrica tra capella, sono questi giorni non si vede, però fino a quando ieri si vedeva bene. Andava che si torna. Beh, si sì. Ai ai ai. E già riconosco tutti questi belli che piacciono a me. Stavo canalizzando, stavo facendo questa cosa. Mamma mia, come sto, ma non c'è questa cosa? È incrociato il quadro, si vedeva lo su e giù, si vedeva. E se subito di silenzio? Oh, la roba è già baitata, non si apre di quello, non c'era. Ho sentito, dove vabbè, poi ho girato, guardato altri canali. Oh, bello, guardate, mi sono tolto un ortizio, mi sono tolto. Mi ha fatto uscire un po' gli occhi, perché non capivo come si voleva puntata. Non capivamo alcune cose, poi dopo abbiamo capito bene con lo strumento, anche a fare il puntamento della parabola e cosa. E va sempre bene, bloccata. Vabbè, me l'avevi detto come se bisognava farlo. 43 gradi su nord ovest, mi sembra che mi ha detto. Puntata lì, dove segnale, c'è lo strumentino. Quando la punta la satellite, l'antenna comincia a segnare, andatene a fondo scala, poi blocchi lì e funziona tutto. Abbiamo messo là, ma con se qua canali mi ha dato, ma fai davvero. Vabbè, 5 minuti di bianco per me, dai, che è arrivata gente, dai, ci sentiamo più tardi, dai, ciao ciao. Ciao Lucino, ciao bro. Ciao Giuseppe, ci sentiamo dopo, non c'è problema. Ma tu mai mai sotterrai il satellitare, cioè? Se lo sai è una capolata, se non lo sai devi batterci di capo. Certo che lo so, va bene, dai. Vabbè, se c'è uno usa è chiaro, lo uso. No, ma è bello che tu, non so tu che anche se ce l'ha portata, dall'altra parte che c'è l'antenna vicino, anche con la potenza un po' alta, non li fa niente, non li fa nulla, non sai cosa vuol dire niente, proprio manco con la grinta. Ma perché cosa fa? Che cosa fa? Praticamente che canali vedi? Canali di tutto il mondo, vedi? Spagna, Francia, Giappone, tutti i canali di dove, e poi ci sono canali di attacco. Anche italiani, di tutto vedi, hai capito? Però ho detto, se lo fai qua, se metti, ti attacca un baracchino grosso e dai potenza, ti turba un pochettino, se ti stai facendo. soprattutto quando attacco l'amplificatore, qualche volta, dai, l'ho provato a attaccare, però poi lì abbiamo fatto la prova dall'altra parte che la parabola lì non li fa assolutamente niente, ma lo so che vuol dire niente, manca una grinta. Thank you. prenderlo una cosa, facci che... Ci sentiamo dopo, io sono qua a 4, ciao.